Capitolo 3. Trascorsero quasi 3 settimane prima che Lewis trovasse il tempo di sviluppare le fotografie. Le portò a Windy Willows la prima domenica in cui vi si recò a cena. Sia la casa che l'ometto erano riusciti perfettamente. Sembra vero, disse Rebecca Dew quando vide l'immagine del bambino sorridente. Caspita, come ti assomiglia, Lewis! Esclamò Anna. È vero, concordò Rebecca Dew con un'attenta occhiata di valutazione. Mi ha fatto subito venire in mente qualcuno, ma non sapevo chi. Sì, gli occhi, la fronte, l'espressione sono i tuoi, Lewis, disse Anna. Ma è difficile credere che io sia stato un bambino tanto bello, rispose Lewis con un'alzata di spalle. Devo avere da qualche parte una fotografia presa quando avevo 7 anni. La cercherò e le metteremo a confronto. Riderebbe nel vedermi, signorina Shirley. Ho un'aria seria, lunghi capelli ricci, il colletto di pizzo e sto sull'attenti come un soldatino. Per tenermi ferma la testa dovevano aver usato uno di quegli aggeggi a tre pinze di una volta. Se questa fotografia mi assomiglia davvero, allora è solo una coincidenza. L'ometto non è mio parente. Non ho più parenti qui sull'isola. Dove sei nato? Chiese zia Kate. Nel New Brunswick. Il papà e la mamma morirono quando avevo 10 anni e venni qui a vivere con una cugina della mamma. La chiamavo zia Ida. Come sapete, è morta 3 anni fa. Jim Armstrong è originario del New Brunswick, intervenne Rebecca Dew. Non è nativo dell'isola. Non sarebbe così scorbutico altrimenti. Abbiamo le nostre caratteristiche, ma siamo gente civile, noi. Non sono certo di voler scoprire un parente nell'affabile signor Armstrong, disse Lewis con un sorriso, buttandosi sul pane abbrustolito alla cannella di zia Cetty. Comunque, quando avrò ritoccato e incorniciato la fotografia, la porterò di persona a Glencove Road e farò qualche indagine. Può darsi che sia un lontano cugino o qualcosa del genere. In effetti non so niente dei parenti di mia madre, ammesso che ne avesse. Ho l'impressione però che non ne avesse, ma so per certo che papà non ne aveva. Se porterai la fotografia tu stesso, non sarà una delusione per l'ometto non poter ricevere niente dall'ufficio postale? Disse Anna. Oh, inventerò una scusa. Gli manderò qualcos'altro per posta. Sabato pomeriggio Lewis arrivò in Spokes Lane con un vetusto calesse tirato da una cavalla ancor più vetusta. Vado a Glencove a portare la fotografia al piccolo Teddy Armstrong, signorina Shirley. Se la mia elegante vettura non le procura un infarto, gradirei che venisse anche lei. Almeno le ruote dovrebbero restare al loro posto. Dove diavolo hai pescato quel pezzo da museo, Lewis? Chiese Rebecca Dew. Non beffeggi il mio nobile destriero, signorina Dew. Abbia rispetto per la vecchiaia. Mi ha prestato calesse e cavalla il signor Bender, a patto che gli faccia una commissione sulla strada di Dawlish. Non avrei fatto in tempo ad andare e tornare da Glencove in giornata. Davvero? Disse Rebecca Dew. Io farei prima di quella bestia ad andare e tornare. E con un sacco di patate per il signor Bender, per giunta. Lei è veramente un portento. Le gote già rosse di Rebecca Dew divennero ancora più rosse. Non prendere in giro gli anziani, gli disse con tono di rimprovero. Poi, come a volergli dare uno schiaffo morale, aggiunse: Ti ci starebbe qualche ciambella prima di partire? Quando furono di nuovo all'aperto, la cavalla bianca dimostrò tuttavia sorprendenti capacità locomotorie. Mentre procedevano tra 1000 balzi, Anna rideva tra sé e sé. Che cosa avrebbe detto la signorina Gardner o la zia Jamesina se avessero potuto vederla? Beh, non gliene importava niente. Era una giornata ideale per una gita nella campagna ammantata della sua splendida veste autunnale e Lewis era la compagnia adatta. Lewis era destinato ad avere successo, rifletté. Nessuno che lei conoscesse si sarebbe sognato di invitarla a una scampagnata sul calesse dei Bender con tanto di cavalla. Ma Lewis non ci trovava niente di strano. Che importanza aveva come si arrivava in un posto purché ci si arrivasse? Il profilo tranquillo delle lontane colline manteneva lo stesso azzurro, le strade mantenevano lo stesso rosso e gli aceri lo stesso splendore, qualunque fosse il mezzo di trasporto. Lewis aveva una sua filosofia ed era indifferente agli eventuali commenti della gente, come a quello degli studenti del liceo che lo chiamavano Donnetta perché faceva i lavori di casa alla pensione, che lo chiamassero pure come volevano. Prima o poi sarebbe stato lui a ridere di loro. Aveva le tasche vuote, ma tanto sale in zucca. Quest'oggi poi il pomeriggio era idilliaco e presto avrebbero rivisto l'ometto. Mentre il cognato del signor Bender caricava il sacco di patate sul calesse, gli parlarono dello scopo di quella scampagnata. «Volete dire che avete una foto del piccolo Teddy Armstrong?» esclamò il signor Merrill. «Già, e anche bella!» Lewis gliela mostrò con orgoglio. «Non credo che un fotografo di professione gliel'avrebbe fatta meglio.» Il signor Merrill si batté una manata sulla coscia. «Questo è il colmo! Diamine, il piccolo Teddy Armstrong è morto!» «Morto?» esclamò inorridita Anna. «Oh, non me lo dica, signor Merrill, non mi dica che quel tesoro di bambino...» «Spiacente, signorina, ma è la verità. E suo padre è come diventato matto e si dispera perché non ha nemmeno una fotografia. Ma ora ce l'avete voi.» «Bene, bene.» «Sembra impossibile», disse Anna con gli occhi pieni di lacrime. Rivedeva l'esile figura sul muretto con la mano alzata in segno di saluto. «E invece è possibile, purtroppo. È morto circa 3 settimane fa, polmonite. Ha patito tanto, ma è stato coraggioso e paziente come un vero uomo. Non so che ne sarà di suo padre ora. Dicono che sembra impazzito, sempre a rimuginare, a borbottare da solo tutto il tempo. Se solo avessi una foto del mio ometto, continua a dire. Quell'uomo mi fa pena», disse a un tratto la signora Merrill. «Era una donna ossuta e magra, con capelli grigi, un abito di cotonina arruffato dal vento e un grembiule a quadretti. Ferma vicino al marito non aveva ancora parlato. È agiato e mi è sempre parso che ci guardasse dall'alto in basso perché siamo poveri, ma noi abbiamo il nostro ragazzo e non importa se si è poveri finché si ha qualcuno da amare.» Anna guardò la signora Merrill con nuovo rispetto. Non era bella, ma quando i suoi occhi grigi e infossati incontrarono quelli di Anna, vi fu un muto scambio di simpatia. Anna non aveva mai visto la signora Merrill prima di allora e non la rivide più, ma la ricordò perché aveva scoperto il segreto fondamentale della vita. Non si è mai poveri finché si ha qualcuno da amare. Quella giornata, piena di promesse, era ormai rovinata. In un solo breve incontro l'ometto aveva conquistato Anna. Anna e Lewis percorsero in silenzio la strada per Glen Cove e il viale erboso. Carlo era accucciato sulla soglia della Porta Celeste. Quando scesero dal calesse, andò loro incontro, poi leccò la mano ad Anna e la guardò con grandi occhi tristi, come chiedendo notizie del compagno di giochi. La porta era aperta. Nell'interno, in penombra, scorsero un uomo con il capo reclinato sul tavolo. Quando Anna bussò, si alzò e si avviò alla porta. Quanto era cambiato! Era smunto. Aveva le guance scavate, la barba lunga e negli occhi infossati riluceva a tratti un cupo bagliore. Anna si aspettava un rifiuto, ma l'uomo parve riconoscerla e le disse con voce inespressiva: «È tornata? L'ometto me l'aveva detto che lei gli aveva parlato e dato un bacio. Lei gli piaceva. Sono dolente di essere stato villano. Che cosa vuole?» «Vorremmo mostrarle una cosa», disse Anna con dolcezza. «Venite a sedervi», disse lui tetro. Senza dire nulla, Lewis tirò fuori la fotografia dell'ometto e gliela porse. Lui la afferrò, la divorò con lo sguardo stupefatto, poi si lasciò cadere sulla sedia e scoppiò a piangere. Anna non aveva mai visto un uomo piangere in quel modo. Rimase da parte con Lewis, commossa, lasciando che si sfogasse. «Oh, non sapete che cosa significhi per me», disse infine con voce rotta dall'emozione. «Non avevo una fotografia sua, nemmeno una, e non sono come gli altri, io non ricordo le facce. A differenza di tanti altri, non ho memoria visiva. Da quando l'ometto è morto, sono in croce, non riuscivo nemmeno a ricordare che aspetto aveva, e ora mi avete portato questa, e dire che sono stato tanto scortese con voi. Sedetevi, sedetevi. Vorrei potervi esprimere la mia riconoscenza. So che mi avete salvato dalla pazzia e forse dalla morte.» «Oh, signorina, non è lui tale e quale. Sembra che stia per parlare il mio ometto. Come farò a vivere senza di lui? Ora non ho più scopo nella vita. Prima sua madre, poi lui. Era un tesoro di bambino», disse Anna con dolcezza. «Proprio proprio così, il mio piccolo Teddy. Theodore, come lo chiamava sua madre, il mio dono di Dio, ripeteva sempre. E anche lui è morto di una morte tanto crudele. Era così allegro e pieno di vita. E il destino l'ha schiacciato. Tanto paziente è stato, non si è mai lamentato. Una volta mi ha guardato dritto in faccia e mi ha detto con un sorriso: «Papà, credo che tu ti sia sbagliato in una cosa, solo una. C'è il paradiso, vero papà?» Ho detto di sì, sì, c'era il paradiso. Dio mi perdoni per aver cercato di insegnargli il contrario. Ha sorriso di nuovo, contento, e ha detto: «Beh, papà, credo che ci andrò. Ci sono già la mamma ed io, ci starò benone.» «Ma sono preoccupato per te, papà. Sarai terribilmente triste e solo senza di me. Ma cerca di stare allegro. Sì, cortese con tutti e poi vieni a raggiungerci. Mi ha fatto promettere che ci avrei provato. Ma quando poi se n'è andato, il mondo mi è sembrato vuoto. Sarei impazzito se non mi aveste portato questa. Sarà un po' più facile ora.» Parlò a lungo del suo metto, quasi che parlarne gli desse sollievo. Il riserbo e la scontrosità gli erano caduti di dosso, come un abito smesso. Infine Lewis prese la piccola fotografia sbiadita che lo ritraeva da bambino e gliela mostrò. «Trova che assomiglia a qualcuno, signor Armstrong?» chiese Anna. Il signor Armstrong la scrutò con perplessità. «Sembra l'ometto, spiccicato», disse infine. «Chi è?» «Sono io», disse Lewis, «all'età di 7 anni. Per via di questa strana somiglianza con Teddy, la signorina Shirley mi ha convinto a portargliela a vedere. È possibile che io e lei, o l'ometto, siamo lontani parenti? Mi chiamo Lewis Allen e mio padre era George Allen e sono nato nel New Brunswick.» James Armstrong scosse la testa, poi disse: «Sua madre come si chiamava?» «Mary Gardiner.» James Armstrong lo guardò un attimo senza parlare. «Era mia sorellastra», disse infine. «Praticamente non l'ho conosciuta. L'ho vista una sola volta. Dopo la morte di mio padre sono stato allevato da uno zio. Mia madre si risposò e andò via. Venne a trovarmi una sola volta e portò con sé la figlia. Morì poco dopo e non rividi più la sorellastra. Quando mi trasferii qui sull'isola ne persi le tracce. Tu sei mio nipote e cugino dell'ometto.» Era una notizia sorprendente per un ragazzo che credeva di essere solo al mondo. Lewis e Anna trascorsero tutta la serata con il signor Armstrong, che si rivelò un uomo colto e intelligente, e incominciarono a guardarlo con nuovo rispetto. Dimenticarono la rude accoglienza della prima volta e scoprirono, dietro la maschera dell'orso, una persona di valore. «Naturale», disse Anna mentre al tramonto ritornavano verso Windy Willows. «L'ometto non avrebbe amato tanto suo padre, altrimenti.» Quando Lewis Allen il sabato seguente andò a trovare lo zio, questi gli disse: «Ragazzo, vieni a vivere con me, sei mio nipote e posso fare molto per te, quello che avrei fatto per il mio ometto se fosse vissuto. Tu e io siamo soli al mondo, io ho bisogno di te. Mi chiuderei di nuovo in me stesso, vivendo qui da solo. Voglio che mi aiuti a mantenere la promessa fatta al mio ometto. Il suo posto è vuoto. Occupalo tu.» «Grazie, zio, farò del mio meglio», disse lui stendendo la mano. «E ogni tanto porta qui quell'insegnante. Mi piace quella ragazza. Anche all'ometto piaceva. Papà, mi ha detto, credevo che mi piacesse farmi baciare solo da te, ma quando mi ha baciato lei mi è piaciuto. Aveva qualcosa negli occhi, papà.» Capitolo 4. Il termometro vecchio del portico segna 0 gradi e quello nuovo della porta di servizio ne segna 10 sopra, commentò Anna in una gelida serata di dicembre. «Sono incerta se prendere il manicotto.» «Meglio fidarsi del termometro vecchio», disse prudentemente Rebecca Dew. «Probabilmente è più abituato al nostro clima. E comunque, dove va con questa serataccia?» «Vado in Tempe Street a chiedere a Catherine Brooks se vuole passare con me a Green Gables le vacanze di Natale.» «Allora vuole rovinarsi le vacanze», sentenziò Rebecca Dew. «Tratterebbe dall'alto in basso anche gli angeli, quella, ammesso che si degnasse di entrare in paradiso. E quel che è peggio, è fiera della sua maleducazione. Secondo lei è un segno di carattere? Posso darle ragione con la mente, ma non con il cuore, disse Anna. Sento che Catherine Brooke, sotto la scorza di antipatia, è in fondo una ragazza timida e infelice. Qui a Summerside con lei non riesco a cavare un ragno dal buco, ma credo che si scioglierà se riuscirò a farla venire a Green Gables. Non ci riuscirà, non verrà, profetizzò Rebecca Dew. Probabilmente prenderà l'invito come un'offesa, penserà che lei vuole farle la carità. Anche noi una volta l'abbiamo invitata qui al pranzo di Natale, l'anno prima che lei arrivasse. Ricorda, signora McCumber, quell'anno che ci siamo fatti dare due tacchini e poi non sapevamo come mangiarli. Ma ha saputo dire solo no, grazie, se c'è una cosa che odio è la parola Natale. Ma è orribile odiare il Natale. Bisogna trovare un rimedio, Rebecca Dew. Glielo chiederò e qualcosa nel dito mignolo mi dice che verrà. Eh già, ammise a malincuore Rebecca Dew. Se lei dice che qualcosa accadrà, bisogna crederci. Non vedrà per caso nel futuro? La madre del capitano McCumber ne era capace. Mi faceva venire i brividi. No, non ho poteri da brivido, però da qualche tempo ho la sensazione che Catherine Brooke sia affamata di compagnia, nonostante la sua aria scorbutica. Vedrà, Rebecca Dew, il mio invito giungerà proprio nel momento psicologico adatto. Io non sono una dottoressa in lettere, disse Rebecca Dew ostentando grande umiltà, e non le nego il diritto di usare parole che non sempre capisco. E non nego nemmeno che lei sappia rigirarsi la gente a suo piacimento. Sì, basta vedere come ha sistemato i Pringle. Ma mi lasci dire che la compiango se si porterà a casa a Natale quell'essere a metà tra un cubo di ghiaccio e una grattugia per la noce moscata. Anna si avviò verso Tempe Street con minor sicurezza di quella ostentata con Rebecca Dew. Ultimamente Catherine Brooke si era davvero dimostrata insopportabile. Anna, più volte offesa, si era ripetuta mai più come il corvo di Po. Ancora il giorno prima Catherine l'aveva trattata in modo decisamente insultante durante una riunione degli insegnanti. Ma i suoi occhi, in un momento in cui non si sentiva osservata, avevano assunto un'espressione intensa e frenetica, come quelli di una furibonda creatura in gabbia. Anna aveva trascorso la prima parte della notte chiedendosi se dovesse invitare Catherine Brooke a Green Gables. Infine si era addormentata dopo aver preso una decisione irrevocabile. La padrona della pensione introdusse Anna nel salotto e scrollò le spalle grasse quando chiese della signorina Brooke. Le dirò che è qui, ma non so se scenderà. Stasera ai musi. A tavola le ho detto che la signora Rawlins trova da ridire su come si veste male per essere un'insegnante del liceo di Summerside e lei l'ha presa con la sua solita superbia. Non avrebbe dovuto dirglielo, disse Anna in tono di rimprovero. Mi sembrava che dovesse saperlo, ribatté la signora Dennis risentita. Allora le sarà sembrato pure che dovesse sapere che è stata giudicata dall'ispettore una delle migliori insegnanti delle province marittime? Chiese Anna. O forse lei questo non lo sapeva. Oh, ne ho sentito parlare, ma è già abbastanza piena di sé, dire orgogliosa e dire niente, anche se non so di cosa abbia da essere orgogliosa. A ogni modo, stasera era furibonda perché le ho detto che non poteva tenere un cane. Si è ficcata in testa di volere un cane. Ha detto che pagherebbe lei i pasti e che starebbe attenta a non farlo disturbare. E io che me ne faccio quando lei è a scuola? Ho puntato i piedi, non tengo cani a pensione, ho detto. Oh, signora Dennis, perché non le lascia tenere un cane? Non le darebbe fastidio? Non molto. Potrebbe tenerlo nel seminterrato mentre lei è a scuola. E un cane è una vera difesa di notte, glielo permetta, la prego. Quando Anna Shirley diceva la prego, i suoi occhi acquistavano un'espressione a cui era impossibile resistere. La signora Dennis, nonostante le spalle grasse e la lingua lunga, non era una cattiva donna. Ma a volte Catherine Brooke la faceva uscire dai gangheri con i suoi modi scortesi. Non so perché le interessa tanto se quella ha o non ha un cane. Non sapevo che foste amiche. Amici non ne ha? Non ho mai avuto una pensionante così poco socievole. Penso che sia proprio per questo che vuole un cane, signora Dennis. Nessuno di noi può vivere senza compagnia. Beh, è la prima volta che noto un lato umano in lei, disse la signora Dennis. Non è tanto l'idea del cane che mi secca, ma il modo come me l'ha chiesto. Immagino che mi rifiuterebbe il permesso se le chiedessi di tenere un cane, vero, signora Dennis? Ha detto, tutta superbiosa. Aspetta che ti sistemo. Lei immagina bene, le ho detto. Superbiosa anch'io. Non mi piace rimangiarmi la parola, come a tutti, ma le dica che può tenere un cane se mi garantisce che non farà guai in salotto. Anna pensò che il salotto non avrebbe potuto risentire più di tanto degli eventuali guai del cane. Osservò, rabbrividendo, le tendine sporche di pizzo e l'orribile tappeto con le rose rosse. Mi dispiace pensare che qualcuno debba trascorrere il Natale in una pensione come questa, fu il suo commento interiore. Non mi stupisco che Catherine detesti il mondo intero. Qui dentro bisognerebbe cambiare l'aria. C'è un odore stantio di cucina. Perché mai Catherine Brooke continua a stare a pensione qui, visto il discreto stipendio che prende? Dice che può salire, riferì con aria dubbiosa la signora Dennis, poiché la signorina Brooke non si era smentita nemmeno in quest'occasione. La scala, stretta e ripida, era repellente. Respingeva, ecco tutto. Non invitava a salire, a meno che non vi si fosse costretti. Il linoleum del ballatoio era strappato in più punti. La cameretta sul retro, in cui Anna venne introdotta, era ancora più tetra del salotto. La illuminava di luce cruda un beccuccio a gas, non schermato. C'era un letto con la fossa nel mezzo e una finestrella con misere tendine affacciata su un cortiletto disseminato di lattine. Ma all'orizzonte il cielo era meraviglioso e un filare di pioppi si ergeva sullo sfondo delle lontane colline infuocate. «Oh, signorina Brooke, guardi che tramonto!» disse Anna estasiata, dopo essersi accomodata a un secco cenno di Catherine su una cigolante sedia a dondolo priva di cuscini. «Tramonti ne ho visti tanti», disse quest'ultima freddamente senza muoversi. Crede forse di conquistarmi con un tramonto?» «Oh, ma questo non l'ha visto! Ogni tramonto è diverso e unico!» «Restiamo qui sedute e imbeviamoci di questa luce», disse Anna. «Ma pensò, non dice mai una parola cortese?» «Non sia ridicola!» L'insulto più grave che si potesse fare, con l'aggiunta di una carica offensiva nel tono sprezzante di Catherine. Anna distolse gli occhi dal tramonto e guardò Catherine, più che propensa ad alzarsi e andarsene. Ma Catherine aveva una strana espressione. Possibile che avesse pianto? Certamente no, era inimmaginabile che Catherine Brooke piangesse. Così mi fa capire che la mia visita non è gradita, disse Anna lentamente. Non sono capace di fingere, non ho quel tatto regale che la contraddistingue, non so dire a ciascuno la parola adatta. La sua visita non è gradita. E le pare questa forse una camera in cui ricevere visite? Catherine indicò con gesto sprezzante la tappezzeria stinta, le sedie spoglie, i mali in arnese e la traballante toilette rivestita di mussola floscia. Non è certo una bella camera, ma perché ci sta se non le piace? Perché? Perché? Lei non lo capirebbe, ma non importa. Non mi curo di quel che pensano gli altri. Come mai è venuta qui stasera? Suppongo che non sia venuta soltanto per immergersi nella contemplazione del tramonto. Ma sono venuta a chiederle se vorrebbe passare le vacanze di Natale con me a Green Gables. E ora aspettiamo l'altra bordata di sarcasmo, pensò Anna. Almeno si sedesse, invece sta lì in piedi come in attesa che io vada via. Ci fu un attimo di silenzio. Poi Catherine disse lentamente: Perché me lo chiede? Non certo perché le sono simpatica. Nemmeno lei riuscirebbe a fingere una cosa del genere. Perché non sopporto l'idea che un essere umano trascorra il Natale in un posto come questo, disse Anna con sincerità. Allora arrivò la battuta sarcastica. Oh, capisco, un'opera di carità di stagione. Non sono ancora ridotta a quei punti, signorina Shirley. Anna si alzò. Aveva perso la pazienza con quella creatura che stava sempre sulle sue. Attraversò la camera e fissò Catherine negli occhi. Catherine Brooke. Non so se lei lo sa, ma ha proprio bisogno di una bella sculacciata. Si guardarono per un momento. Un bel sollievo avermelo detto, vero? Disse Catherine. Ma il tono offensivo era sparito dalla sua voce. Anna scorse persino una debole contrazione agli angoli della bocca. Già, disse Anna, è da un po' che volevo dirglielo. Non l'ho invitata a Green Gables per compassione, lei lo sa benissimo. Il vero motivo gliel'ho detto, nessun essere umano dovrebbe trascorrere il Natale qui. È un'idea inaccettabile. Mi ha invitata a Green Gables perché le faccio pena? Sì, mi fa pena. Perché ha rifiutato la vita e ora la vita rifiuta lei. Basta, Catherine. Apra le porte alla vita e la vita entrerà. Con un'alzata di spalle, Catherine rispose: È la versione di Anna Shirley del vecchio luogo comune. Accosta allo specchio un sorridente viso e incontrerai un sorriso, disse Catherine con un'alzata di spalle. E come tutti i luoghi comuni, dice la verità, la rimbeccò Anna. Allora, verrà o non verrà a Green Gables? Che direbbe, ma a se stessa, non a me, se io accettassi? Boh, direi che per la prima volta da quando la conosco dimostra di avere un barlume di buonsenso, ribatté Anna. Sorprendentemente, Catherine rise. Si avvicinò alla finestra, osservò con cipiglio una striscia di cielo infuocato, ultimo resto del tramonto disprezzato, e poi si voltò. Benissimo, verrò. Ora può compiere il rito e dirmi che è felice e che ci divertiremo. Felice lo sono, ma non so se ci divertiremo. Dipenderà in gran parte da lei, signorina Brooke. Oh, mi comporterò decentemente, ne sarà sorpresa. Credo che non mi troverà un ospite esaltante, ma prometto che userò le posate come si deve e che non risponderò male a chi farà commenti sul tempo. Le dico onestamente che vengo perché nemmeno io riesco a sopportare l'idea di passare le vacanze qui da sola. La signora Dennis passerà la settimana di Natale con la figlia a Charlottetown. Mi secca dover pensare io ai pasti. Sono una pessima cuoca. Ecco come la materia trionfa sopra lo spirito. Ma mi dà la sua parola d'onore che non mi augurerà un buon Natale? Detesto l'allegria forzata delle feste. Glielo prometto, ma non posso rispondere per i gemelli. Non le chiederò di restare qui ora, morirebbe congelata. Ma vedo che una bellissima luna ha sostituito il suo tramonto e se le fa piacere l'accompagnerò a casa e l'ammirerò con lei. Certo che mi fa piacere, disse Anna. Ma voglio che lei sappia subito che ad Avonlea la luna è molto più bella. Allora, viene, disse Rebecca Dew, riempiendo la bottiglia dell'acqua calda per Anna. Beh, signorina Shirley, spero che non cercherà mai di convincermi a diventare maomettana, perché ci riuscirebbe. Dov'è quel gatto? A zonzo per Summerside con il termometro che segna zero. Non quello nuovo. E Dusty Miller è nella mia torretta, felice e beato nella sedia a dondolo vicino alla stufa. Ah, beh, disse Rebecca Dew, rabbrividendo mentre chiudeva la porta della cucina. In una serata come questa fa piacere essere in casa al caldo.